Che bel programmino! Che bei dischetti! E con questo ci faccio un programmone sconvolgente! Io il sistema! L'ho trovato! Zubri, zubri, zubri, zubri.